24 mattino. Sulle origini della fortuna di Berlusconi, no, questa è la cosa, non mi pare che sia stata fatta ancora chiarezza. Questo che sta dicendo questo poveretto è contrario. No, perché ci sono magistrati che lavorano da 30 anni rompendo il cazzo su Berlusconi, hanno lavorato solo su di lui. Se avessero trovato materia lo arrestavano. Basta, è un imbecille, è un imbecille, lascialo stare. No, lascialo stare, tu attacchi la magistratura. E vabbè, 7:20 minuti, 47 secondi. Vabbè, ma quando Sgarbi discute con Vauro sono scintille, sono dispute memorabili da videoteca. E allora oggi i giornali con tante notizie, e su tutte una sconfitta italiana, la sconfitta per l'agenzia del farmaco che è stata scippata da Milano. Io dico scippata, signori, scippata, perché si è andati a votare con un sorteggio, a decidere l'assegnazione con una monetina, una follia già folle nello sport, immaginatevi nell'economia, nella vita delle persone. Allora, Corriere della Sera: Merkel, trattative fallite per la coalizione, meglio il voto di un governo di minoranza. Questo è l'esito di cui già vi parlavamo ieri con Oscar nei Cani e nei Gatti, il terremoto tedesco che potrebbe veramente cambiare la storia d'Europa, perché se non si fa un governo in Germania, dove si fa? E infatti il fondo di De Bortoli, i dolori dei tedeschi e i nostri, elezioni e alleanza e alleanze, ovviamente si rimanda il rapporto fra l'Italia e la Germania. C'è un sottile, forse anche diffuso, compiacimento italiano per le difficoltà politiche che incontra Angela Merkel. Insomma, anche la stabile per antonomasia Germania affronta le incognite di un quadro politico. Parto così. E Milano beffata dal sorteggio è il titolo del Taglio Centrale. Avanti nei primi scrutini, sconfitta nello spareggio con Amsterdam, il tradimento spagnolo. Questo era il Corriere della Sera. La Verità: sei italiano ti lasciano morire, sei africano ti operano gratis, ospedali discriminano i nostri emigrati. E si tratta del caso di cui alcuni connazionali che rientrano all'estero non hanno diritto all'assistenza. E con un sorteggio l'Europa, questo è il titolo della Verità, ci frega più di un miliardo, pensate. Agenzia del farmaco addio, Milano beffata, il pezzo di Gabriele Carrer, Amsterdam vince le buste, Germania senza governo, si torna al voto e la Merkel vacilla. Sulla Verità anche la segnalazione del nuovo libro di Maurizio Belpietro, Islamofollia, pensate. La Repubblica, Germania, la crisi della Merkel, niente intesa fra CDU, Verdi e Liberali, la cosiddetta coalizione giamaica, ve lo ricordate? Il presidente Steinmeier insiste, un esecutivo in fretta, ma la cancelliera dice no all'ipotesi di un governo di minoranza, meglio tornare a votare. È veramente l'ultima grande sfida di una grande leader europea, qualunque cosa si pensi di lei. E vibrazioni studiate dai geologi, una curiosità su Repubblica, se messi e Springsteen sono come un terremoto. Il fondo di Bonanni, i giochi di Bruxelles, il fondo bis di Angelo Bolaffi, il prezzo del coraggio. E anche il Manifesto su questo, con uno dei suoi titoli, il gelo sopra Berlino, anziché il cielo sopra Berlino, con il famosissimo film della cinematografia tedesca. E la Germania sprofonda in una grave crisi politica, nessun governo è possibile, dopo la defezione dei liberali dalla coalizione giamaica, l'SPD conferma il no alla grande coalizione. Però vedrete che secondo altri giornali sono divisi al loro interno i socialdemocratici tedeschi. L'apertura del Sole 24 Ore: EMA, Milano perde al sorteggio, Gentiloni è una vera beffa, e stretta della Cassazione, una sanzione per ogni omesso versamento, cose interessanti. Il fondo di Paolo Bricco, così l'Europa si trasforma in una lotteria. Però c'è anche un'analisi di Lello Naso, la strada è già tracciata, vuole dire corsivista del Sole, che non è detta l'ultima parola su Milano, che la città vive del suo progetto di futuro anche senza questa autorità. Il Giornale: apertura ovviamente su Emma, l'Italia beffata, e il fondo di Giannino della Frattina, un fallimento di Gentiloni, ma il titolone, anche se non è tecnicamente l'apertura, ha tre colonne, è su Fazio che affonda Rai 1 secondo il quotidiano di Sallusti, adesso è allarme Conti, crolla lo share, di che tempo che fa? Gli spot valgono il 30% in meno, a rischio milioni di euro. Sì, perché c'era una soglia, ci racconta Laura Rio, il 14%, sotto il quale l'agenzia pubblicitaria della Rai doveva rimborsare in parte gli investitori. E un pezzo di Massimiliano Parente: se vale il metodo Brizzi, addio a Ceprin e Pasolini, separare arte e morale, secondo lo scrittore che scrive per il giornale, è impossibile. Il Tempo, ecco il conto delle occupazioni con la K. L'inchiesta, gli effetti della sentenza che condanna lo Stato a risarcire i proprietari dei palazzi. Solo a Roma il Viminale rischia di dover sborsare, pensate, mezzo miliardo di euro per 70 immobili. E sì, si considera una responsabilità oggettiva il mancato sgombero, la difficoltà di entrare, ma qui c'è una fotona centrale interessante, Anna Franca e i soliti idioti, e un fondino di Gianmarco Chiocci che pubblica la foto delle ultime parodie, verrebbe da dire, tremendo, di Anna Frank, che è stata ora effigiata dopo il derby con la cresta di Nainggolan. Il Fatto Quotidiano, tutt'altra apertura, tutt'altra notizia, adesso Del 7, cioè il comandante dell'arma, deve promuovere i suoi co-indagati. E il titolo di spalla di Battista: non mi candido, ma lavorerò per il movimento. Addio Tav, la Gazzetta, addio Tav, Tavecchio. Addio. Palla prigioniera, Tavecchio, il Corriere dello Sport, cede dalle dimissioni, Malagò vuole commissariarlo, ma la strada è in salita e il calcio fa muro, elezioni fra tre mesi, vedremo. E intanto tutta Roma annuncia la Champions di domani. La sinistra sfrutta i bambini, secondo Libero, scolari reclutati alla Caritas, CGL e compagni per sfilare a favore della cittadinanza di immigrati. Il Messaggero: Emma, Milano perde la lotteria, giustissimo, una scelta che avrebbe squilibrato il paese, dice Aiello, controcorrente nel suo fondo. Il Foglio: Giamaica, Italia. La Stampa: la grande beffa di Milano, con la foto centrale su Tavecchio, ovviamente, addio con rabbia, sono vittima degli sciacalli. Avvenire: migranti, la Chiesa accoglie senza paura, Eurobeffa e Ital rimonta, un gioco di parole di Marco Girardo nel suo editoriale. E però poi una foto centrale: il Papa con i poveri sono la via per il paradiso. Ci fermiamo così, giustamente, per il meteo. Curiamolo, leviamogli il metadone. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. 7:34 minuti, 47 secondi. Oggi vi porto per un attimo fra Omero e Catullo. È uscito un libro, ce lo segnala Libero, pagina 27. Dire parolacce in greco e latino, una bella contaminazione di cultura e trasgressione. Vi regalo una perla: Cacator cave malum. Era una scritta sui muri di Pompei che se la prendeva con chi sporcava con i propri bisogni le case, le mura della città. E capite che cos'è il cacator? Stai attento alla sventura, sporcaccione. Bene, a chi lo possiamo dedicare oggi? A tanti. Però partiamo quindi dai cacator europei che hanno fatto questa follia. Hanno realizzato questo sorteggio, non un bando, come giustamente dice oggi Maroni, non un contesto, ma una eliminazione che è stata affidata al caso, alla monetina. E c'è anche un approfondimento sul Corriere della Sera per chi è interessato sempre alla cultura, alle storie, dai greci antichi al calcio, se sceglie il caso. Pensate che ovviamente nell'antica Grecia, ad Atene, per scegliere democraticamente i cittadini che avrebbero composto le giurie giornaliere, veniva usato il cleroterion, una specie di stele con diverse cavità sulle quali si fermavano le sfere estratte a sorte. Signori, è l'antenato della roulette. Ma andiamo invece alla rabbia dell'Italia. Sulla critica al bussolotto, ho fatto tutto il possibile. Salvini attacca a ridiscutere i 17 miliardi di finanziamento all'Unione Europea. Bracco, quanta amarezza, Cairo, una brutta notizia. E Maroni, Europa folle, ha paura di perdere, di prendere una decisione, ma no a nessuna ritorsione. Dice sul Corriere pagina 5 il governatore della Lombardia, che avremo ospite fra poco: non so se sono più amareggiato o più arrabbiato. Roberto Maroni esita un istante, poi lo dice tutto d'un fiato: la follia di un'Europa che non decide perché ha paura di decidere, forse è la cosa peggiore di tutte. È quello che è accaduto, ma in retroscena della complessa partita di alleanze è affidata la penna di Paolo Valentino. Sempre sul Corriere, a pagina 3, ci spiega i calcoli, le strategie. Alla fine è stato fatale il voltafaccia spagnolo. Non è chiaro chi sia stato il 13° paese ad appoggiarsi, l'Irlanda o forse addirittura la Svezia. Di sicuro non ci ha mai votato la Spagna, all'inizio logicamente impegnata per la candidatura di Barcellona, ma poi subito schieratasi a sostegno di Amsterdam, forse memore dei tempi delle dominazioni spagnole sui Paesi Bassi. Sono antiche le radici di una sconfitta, in questo caso sarebbero antichissime, ma è paradossale che la Spagna proprio non ci sostenga. Pari e poi il sorteggio, così ha vinto Amsterdam, nessuna sindrome di Caporetto, il consigliere Moavero. Sul merito non siamo stati sconfitti, sempre sul Corriere a pagina 2. E come trattano anche gli altri giornali questa notizia? Vi dicevo della Stampa. La grande beffa di Milano, e il fondo è proprio contro questa scelta, questo sorteggio, l'Europa che decide con i dadi. Comunque la si guardi, scrive Marco Zatterin nel suo editoriale, le decisioni che portano l'agenzia del farmaco sui canali di Amsterdam e quella bancaria a Parigi si rivelano figlie di un meccanismo surreale e sciagurato che farà a lungo discutere sull'Europa che si affida ai sorteggi per decidere del proprio futuro. A valutarle dall'alto, scrivono, un copione che consolida l'Unione Europea a matrice franco-tedesca. È un doppio evento che rafforza il potere condiviso da sempre al comando di un'unione sbilanciata, facendo sponda sui sudali del Benelux e cugini del Grande Nord. Sì, perché sorteggio sarà stato, ma c'è il sospetto avanzato da tanti, non solo da Salvini, che quel sorteggio, lo ha detto e lo dirà anche Maroni, fosse un modo per favorire la candidatura di Amsterdam rispetto a quella italiana. E chiudo questa rassegna sull'Europa beffata, è un parere diverso, Giannino e la Frattina, sul giornale a pagina 1 dice: un fallimento ai Gentiloni. Perché? Mancò la fortuna e forse pure e soprattutto il valore. Piovono pietre sull'Italia e dopo aver perso i mondiali di calcio, giusto, perdiamo pure l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che sfrattata da Londra a causa Brexit va ad Amsterdam. Poco importa se la follia burocratica dell'Europa da manicomio assegna un gingillo da 1,7 miliardi di euro l'anno di indotto con sorteggio, dopo tre votazioni in cui Milano aveva sempre tenuto la testa nel conto dei voti, così come al sorteggio assegnato a Parigi l'agenzia bancaria, giustificando la scumato ma mai così condivisibile vaffa Europa del leghista Roberto Calderoli. C'è però da dire, scrive il corso di vista del giornale, che quando si perde è sempre una sconfitta e il rito ambrosiano non ammette giustificazioni, così come quello stesso rito spazzò via tutti, prendendo quell'Expo che ha messo l'Italia al centro del mondo. E insomma, vedete, sono polemiche che continueranno a lungo, ma questo è il cuore delle notizie di oggi. Andiamo però sul terreno della politica, dove accadono tante cose diverse. Vedi, mi sono perso la mia scaletta, capita. E andiamo a Renzi, uso Repubblica per darvi l'aggiornamento, perché ormai è sempre più frequente il bollettino di guerra su questa alleanza che c'è, non c'è. Oggi Emma Bonino dice: non consideratemi dentro il patto automaticamente. Renzi risponde a Bersani di ieri: l'alleanza non si tratta dopo il voto. E Macron, questa è una novità del retroscena di De Marchis, è pronto a proporgli l'uscita dal Partito del Socialismo Europeo. La scommessa dell'ex premier in questo retroscena di De Marchis e di Anaïs Ginori: PD primo partito e centrosinistra seconda coalizione. Oggi incontra il presidente francese Renzi e sul tavolo c'è anche il lancio di un nuovo Eurogruppo. E uno dei mediatori di queste ore, Giulio Santagata, lo conoscerete, un ex ministro prodiano, e risponde a queste domande. C'è il rischio di Silvia Bignami su Repubblica pagina 9 che MDP faccia perdere il centrosinistra nei collegi delle regioni rosse? Da Emiliano è preoccupato? Quello è colpa della legge elettorale che non prevede voto disgiunto e desistenza nei collegi. E poi c'è chi dice che questa legge elettorale il PD se l'è fatta per sé. Se è così, allora sono un po' fessi, oppure l'hanno fatta quando erano nella fase del faccio tutto da me. E però possiamo non aggiornarvi sul Cavaliere? No, assolutamente. Intanto Veltroni teme il disastro elettorale, Grasso tira dritto, si fa fotografare con i ragazzi dello Ius Soli, ma soprattutto Berlusconi, aziende in campo e 4 punte per le elezioni. Sì, perché c'è un uomo nuovo, Alberto Barachini, conduttore di TGcom 24, sarà distaccato da dicembre a gestire la campagna elettorale del leader di Forza Italia, un volto televisivo che si affianca alla Ronzulli, a Mandelli e a Ferri nella nuova squadra degli azzurri. Una curiosità: la Gelmini organizza la contro Leopolda forzista e ci saranno Imprese e CDL. Vedi, Forza Italia addirittura si rifà. E Dibba non si ricandida, è un po' il grande tormentone. Era nell'aria, la paternità vissuta, raccontata, ha portato forse l'uomo più interessante dal punto di vista mediatico dei 5 Stelle a un annuncio shock che avete sentito su Facebook: mi occupo della famiglia, ho scelto la vita, non smetto di fare il militante. E Messina, lo volevo citare, lode al populista per adesso. Dunque Alessandro Di Battista, l'arringa popolo numero 1 dei 5 Stelle, ha deciso che non si ricandiderà. È vero, quell'inciso per adesso, dice Messina, può lasciare qualche dubbio sul suo addio, ma oggi va riconosciuto al giovane parlamentare il coraggio di una scelta che non ha precedenti. Nessun deputato in ascesa ha mai rinunciato a un'elezione sicura. Vero. Vi dicevo, sul giornale c'è un focus particolare sulla sconfitta di Fazio a pagina 10 e c'è questo racconto della soglia raccontato da Laura Io con un pezzo molto informato. La soglia di rimborso minima della pubblicità era il 14%, Fazio è andato sotto con il 13.3%. 60.000 euro è il valore teorico di uno degli spot di prima serata della Rai. Due lampi su Brizzi, un caso tormentato pieno di colpi di scena. Ora sapete che Libero mette in prima pagina, e anche La Verità, sono due fondi che focalizzano su questo tema della ritrattazione di una delle accusatrici, fra l'altro quella mediaticamente più esposta, che ieri dalla D'Urso ha detto: non mi molestò, non ci fu molestia, non ci fu violenza, rimasi turbata. E allora scrive Lucia Esposito sul Libero: l'ex Miss Italia si rimangia tutto. Sul giornale a pagina 31 c'è il pezzo di Parente che ho già segnalato. Ci fermiamo per le strade e torniamo fra poco. Oscar, che è molto più cattivo di me. Mattino. Rieccoci in onda, 349-238-6666 per i vostri messaggi di navigazione in diretta, 800-24-0024 per le telefonate fra poco, nei cani e nei gatti con Oscar Giannino. Ebbene, vi dicevo, una bella analisi di Lello Naso sul Sole 24 Ore, pagina 3, la sede di EMA poteva essere l'acceleratore per la nuova Milano, ma la strada per l'hub della scienza è già tracciato, c'è un'analisi proprio molto meticolosa di tutti i poli che sono nati intorno a sviluppo, ricerca e anche assistenza. È un pezzo di Naso che non voglio dire sia un premio di consolazione, ma che racconta come anche il sorteggio non intacchi la realtà produttiva di Milano. Fondamentale, a pagina 8, sempre del Sole, c'è la grande questione dell'ape social. Dal 2018 platea allargata, il governo lima il pacchetto, oggi il round decisivo, sindacati ancora divisi fra le opzioni: più siderurgici esentati, nuovi impegni su fondo ape per giovani e donne. Però l'intesa viene considerata dal Sole lontana, CISL e UIL verso un possibile via libera, ma la CGIL senza risposta addirittura darà via alla mobilitazione. E poi è arrivata, attenzione perché seguivo questa telenovela da molto tempo, è arrivata la notizia, il Sole, pagina 9, i rimborsi arretrati fino al 2014. Arrivano quindi le istruzioni del Ministero, saranno illegittimi tutti i calcoli che separano garage e cantine dalla casa, come sapete, nella tassazione. C'è anche una bellissima tabella che spiega come si risparmia e quanto, e soprattutto quanto avrete diritto al rimborso. La domanda può essere presentata in carta semplice e deve contenere i riferimenti del richiedente e gli importi. Sì, ma perché non ti rimborsano in automatico? Quando li devono prendere subito, quando li devono restituire, devi fare la domandina. Vabbè. Però c'è un rapporto molto interessante, Aitesis, il conto dello smaltimento, pensate, 9,9 miliardi per la gestione dei rifiuti, l'87% lo paghiamo noi contribuenti. Ed è sempre un approfondimento di Gianni Trovati sul Sole, a pagina 9, di spalla. E anche il Giornale entra sulla vicenda della Tari, a pagina 9, e sul Fatto, a pagina 8, c'è la notizia di Zonin. Sì, perché gli atti, c'è un parlamentare, Andrea Augello di ALA, che praticamente chiede che gli atti vengano consegnati in procura, gli atti della commissione che ha lavorato finora sulla banca Zonin, perché ci sono delle notizie di reato. La commissione inquirente indaga sulle notizie di reato. Sulla Verità, pagina 10, c'è una notizia sui famosi NPL, i non performing loans, cioè i crediti deteriorati, verranno considerati dalla nuova norma retroattivamente, e questa è un'altra cosa che mette un po' nei guai l'Italia perché apre molte sofferenze. Andiamo alla mitragliata. Laura Venditti sul Tempo ci dà l'integrale del discorso di Tavecchio. Lo dovete prendere, ritagliare e mettere in una bacheca perché resterà nella storia. Ale. Allora, sulla Verità, pagina 10, c'è un'inchiesta sponsorizzata dalla Heineken che per la prima volta valuta il lordo prodotto dalle birre in Italia. Non ci potrete credere, è come una finanziaria, 6 miliardi arrivano in Italia dalle birre, ora ci sono le artigianali, le industriali, ci sono tutti i tipi di qualità di birra che insieme producono questa ricchezza incredibile per il paese. Mieli va a lezione dai massoni. Il Tempo, pagina 9, ci dà questa notizia e lui, il giornalista, ex direttore del Corriere della Sera, si giustifica così: non essendo stato massone posso farlo. E non si capisce perché, se essendo stato massone non si poteva andare? Vabbè, può darsi. Il Fatto indaga sull'autovolante, pagina 19. Voi pensate che sia lontana come prospettiva? Ma nemmeno per sogno. Dal 2020, signori, dal 2020 si aprirà il problema delle autovolanti. E dico problema perché ancora non c'è chiarezza sui brevetti, su che cosa bisognerà fare, su E chi pagherà, che tipo di patente ci vorrà per poter volare in cielo e soprattutto come ci si difenderà dagli attentati. E sta di fatto che Uber Air, la compagnia di mobilità aerea di Uber, leader del car sharing e pooling negli Stati Uniti, ha sperimentato questo servizio che inizierà a Dallas. È stato già deciso con il supporto tecnico della NASA, pensate, ma... La Stampa, pagina 22, anche qui il futuro avanza, si arriva ai taxi senza guidatore e praticamente dalla Volvo sono state acquistate 24.000 auto che già programmate per essere senza guidatore, non è poco. Vi state interrogando come eternare il vostro futuro, come pensare alla vostra memoria, ai sepolcri di Foscolo, erano il grande romanzo dell'Italia civile che si specchiava nelle tombe. Ebbene, adesso esiste una nuova possibilità. Nel Regno Unito la società Ascension Flights, formata da diversi impresari di pompe funebri e uniti in un consorzio, permetterà a tutti, ma anche a voi, anche a stranieri, di spedire le ceneri di un defunto nella stratosfera con palloni aerostatici per permetterle poi di rilasciarle nell'atmosfera. La società dice che causa del freddo, circa 60 gradi sotto zero, si crea un effetto visivo molto bello da vedere. Ogni microscopica gocciolina d'acqua rimasta nelle ceneri si ghiaccerà all'istante, creando una cascata di scintille. Vedi, vedi? Allora, Bologna, un parroco, Don Francesco Pieri, ha attaccato dopo la morte di Rina Emma Bonino, dicendo che ha più morti della coscienza, sulla coscienza di Totò Riina. Ma dai! Ci fermiamo per tornare con i cani e i gatti, giornale radio, e poi arriva il momento di Oscar Giannino. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.